Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 23 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.40 e tramonterà alle 16.59. La luna è calante e siete di nuovo all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Continuano i contributi di Vita nei campi sullo stato dei vari settori dell'agricoltura regionale. Oggi seconda puntata sulla viticoltura e in particolare sulle nuove tecniche di coltivazione. A seguire la storia di Angelo Floramo che ci parla della credenza, forse il mobile più importante nelle case contadine di una volta. Sta prendendo sempre più forma e contenuto la nuova PAC, ne parliamo nella rubrica delle normative, per passare poi ai sempre utili consigli sulla potatura delle piante da frutto. In tema di api oggi vedremo quali siano le sostanze zuccherine indispensabili per la vita nell'alveare e per la rubrica degli alberi il rapporto non sempre corretto nelle nostre città tra pianta e approvvigionamento idrico. In chiusura andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Prosegue la serie di approfondimenti sui vari settori dell'agricoltura regionale. Oggi ritorna il professor Enrico Peterlunga sui temi della viticoltura, in particolare su come siano cambiate le tecniche colturali e la loro ricaduta sul lavoro in vigna e qualità delle uve. Parliamo di tecniche di coltivazione del vigneto con un po' di storia recente. Fino alla Seconda Guerra Mondiale la tecnica di coltivazione delle viti era molto simile a quella dei secoli precedenti, possiamo dire simile anche a quella dei Romani, che ci viene descritta in modo ordinato e preciso da Columella nel primo secolo d.C. Con gli anni 50 del secolo scorso e la ricostruzione del secondo dopoguerra, le cose cambiarono e di molto. Da una parte il nuovo benessere in Italia richiese maggiori quantità di vino, dall'altra aumentò la disponibilità di fattori di produzione, quali ad esempio i concimi chimici che l'industria mise a disposizione in grande quantità e a prezzo basso, in quella che è stata chiamata la rivoluzione verde, che ha interessato tutto il pianeta, un incremento della produttività dell'agricoltura in generale. La concimazione del vigneto, soprattutto con azoto, aumentò molto con il risultato di aumentare le produzioni, ma anche il vigore vegetativo delle piante, che richiese a quel punto interventi pesanti di cimatura dei germogli in giugno e luglio. Io ricordo da ragazzo che andavo a lavorare appunto in luglio a Netà Lisvis a pulire le viti, ovvero a effettuare cimature pesanti sulle viti che erano un fitto bosco in quegli anni. L'eccesso di concimazione inoltre incrementava l'attacco di malattie, ad esempio la botrite, e favoriva la comparsa di carenze nutrizionali indotte, ad esempio la carenza di magnesio per eccesso di concimazione potassica. Adesso la produttività, anche grazie ai disciplinari DOC che stabiliscono dei massimali, è calata, con un maggiore equilibrio fra foglie e grappoli e una migliore qualità dell'uva. Oggi addirittura, in certi vigneti a basso vigore, si evita la cimatura, lasciando che i germogli in cima al filare continuino a crescere per poi arrestarsi da soli a fine luglio all'invaiatura. Questa tecnica è definita capannatura. Un'altra tecnica che si usa oggi, un tempo era praticamente sconosciuta, è la defogliazione della zona dei grappoli, ovvero asportare le foglie nella zona dei grappoli per arieggiare e dare più luce ai grappoli stessi. Questo migliora la sanità dei grappoli e anche il colore nelle varietà rosse in particolare. Il rischio è che ci siano, con un sole troppo violento, delle scottature sull'acino, cioè imbrunimenti che indicano ossidazioni di polifenoli e scadimento della qualità. Per questo la defogliazione viene effettuata spesso solo sul lato est dei filari, che riceve il sole nelle ore mattutine più fresche e dunque con minore rischio di scottature. Un'altra, possiamo chiamarla curiosità o novità rispetto al passato, è la defogliazione della zona dei grappoli in prefioritura, la quale togliendo foglie causa una minore allegagione, cioè i fiori con minori carboidrati abortiscono e cadono. Questa pratica, in generale dannosa, si rivela utile però nelle varietà a grappolo compatto, poiché con il grappolo più spargolo si riduce il rischio di malattie. Anche la riduzione della produttività talvolta ha degli aspetti negativi. Con una produzione molto bassa, gli zuccheri nell'acino crescono, portando i vini a gradazioni alcoliche troppo alte che diventano fuori mercato, oltre i 15 gradi naturali. E per contrastare questo è necessario addirittura dimezzare la chioma a fine luglio per togliere potenziale fotosintetico e dunque zucchero nell'acino. Infine, una pratica considerata qualitativa e spesso però applicata male è il diradamento dei grappoli, togliere grappoli già formati per migliorare quelli che rimangono attaccati alla pianta, ma deve essere applicata solo dove strettamente necessaria e dove si è dimostrata nei fatti utile, senza dire che è una pratica che ai viticoltori più anziani fa venire i brividi alla schiena, buttare giù l'uva quasi matura, insomma, è una cosa un po'... Però, come si vede, anche la tecnica colturale è divenuta un insieme di azioni precise e delicate che richiedono conoscenze e un'osservazione acuta delle piante, scegliendo gli interventi necessari, calibrati con grande accuratezza, non dimenticando che ogni effetto positivo può però comportare effetti collaterali negativi e l'equilibrio è difficile da trovare per seguire, ma è altrettanto appassionante da raggiungere. La credenza nelle vecchie case contadine si può dire fosse il mobile più importante della casa, uno scrigno di piccoli tesori e oggetti importanti per la conduzione delle giornate. Ce ne parla in questa sua storia Angelo Floramo. Un profumo che sa di casa, una mescolanza che ha il sapore di antico, tra il refettorio di un convento, di monache e una farmacia. Custodiva piccole preziosità casalinghe, il servizio di piatti, quello buono, la tovaglia ricamata dalla nonna, portata in dote di generazione in generazione e mai utilizzata per evitare che si macchi. E le medicine. Oli medicamentosi mescolati a erbe, unguenti, pomate che potevano andare bene tanto per lenire una ferita o stemperare le contratture di una distorsione. E poi le cialde, nella loro sacralità, che le rendeva così simili alle ostie del prete, utilizzate per avvolgere la polverina bianca del bicarbonato di sodio, panacea universale che assieme all'olio di fegato di merluzzo poteva guarire ogni malattia. Tra le bottiglie non poteva di certo mancare quella della grappa, distillata clandestinamente in casa, da dosare con attenzione, magari come correzione o resentin nella chicchera del caffè, che riposava lì vicino da qualche parte, mai in polvere, ma sempre in grani, da frantumare nel macinino di legno, anche quello in bella esposizione dietro i vetri. Vicino, il vaso del sale, lo zucchero, guai a confonderli, la conserva rossa di pomodoro nella confezione di cartone, l'acqua benedetta durante la Settimana Santa o nella lunga vigilia dell'Epifania, e poi anche l'ulivo, raccolto nella Domenica delle Palme, per curare l'anima, da bruciare quando minacciava tempesta, per tenere il fulmine e la grandine lontani dagli uomini, le bestie e i campi. E le foglie d'alloro, quelle prese nell'orto dietro casa, per mondare le budella e lo stomaco quando soffrivano di un certo imbarazzo. E ancora il piatto di legno con le noci, i pinoli, il coccio con dentro il miele, il quaderno su cui scrivere e tramandare le migliori ricette di famiglia, immancabilmente macchiato di sugo. Tutto questo faceva bella mostra di sé dentro la credenza, un piccolo mobile generalmente dipinto con una mano di vernice marrone o verdastra, senza pretese. Spesso, negli anni della miseria, veniva messa insieme, riutilizzando le assi di legno del letto di un bambino ormai troppo cresciuto per giovarsene. Nella casa friulana era l'anima della cucina, paradiso dei bambini, consolazione dei vecchi, presidio degli ammalati. Il nome di quell'armadio deriva proprio da credenza, ovvero atto di credere in qualcosa. Ma credere da soli è impossibile. Bisogna essere insieme per farlo, mettendo in comune la forza e la speranza, virtù che abbracciate insaporiscono la vita. La nuova PAC, quella che ci accompagnerà dal 1 gennaio 2023 alla fine del 2027, comincia ad assumere contorni sempre più definiti. Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci aggiorna sulla situazione. Sì, l'ultima volta che abbiamo parlato di questo tema era il mese di settembre e, per quanto l'accordo politico in Europa fosse ormai noto, eravamo ancora in attesa dei testi legislativi. I tre regolamenti comunitari che stanno alla base della nuova PAC sono stati pubblicati nella Gazzetta UE solo il 6 dicembre scorso e entro la fine dell'anno gli Stati membri avevano l'obbligo di trasmettere alla Commissione i propri piani strategici nazionali. Nel mese di dicembre c'è stato un lavoro frenetico tra gli uffici del Ministero, le regioni, le organizzazioni agricole, i gruppi politici e gli altri portatori di interesse per mettere a punto un piano che potesse rispondere alle attese dei vari territori. Ci siamo dunque riusciti? Beh, entro il termine stabilito il Ministero ha trasmesso a Bruxelles un documento di oltre 1500 pagine che ricapitola le scelte nazionali in fatto di pagamenti diretti, di interventi per lo sviluppo rurale e per i mercati di alcuni settori strategici come l'olio, il vino, l'ortofrutta e il miele. In generale tutti speravano in una PAC meno complessa e burocratica, ma su quest'ultimo aspetto bisogna dire che una volta tanto non è la responsabilità dell'Italia, ma deriva direttamente da una regolamentazione comunitaria. Possiamo dire ora di avere un quadro definitivo? In buona parte sì, almeno negli aspetti rilevanti. Nelle prossime puntate magari approfondiremo questioni più tecniche riguardanti il valore dei titoli, la condizionalità rafforzata, gli ecoschemi, gli aiuti accoppiati, i nuovi interventi per lo sviluppo rurale, eccetera. Bisogna però dire che il piano strategico nazionale, per essere operativo, dovrà essere ora valutato e approvato dalla Commissione e dobbiamo mettere in conto che nei prossimi mesi ci sarà sicuramente qualche aggiustamento nei dettagli. È uno degli argomenti più delicati quando si parla di piante da frutto e non se ne parla mai abbastanza. È la potatura. Il professor Raffaele Testolin ci dà ancora qualche ragguaglio. Di potatura abbiamo parlato affrontando le diverse specie e abbiamo visto che alcune specie sopportano bene anche potature errate, mentre altre, come il melo, se ne hanno a male e rispondono a potature errate con scoppi di vegetazione che rovinano la forma dell'albero e la produzione. Innanzitutto cercate di dare una forma aggraziata al vostro albero. Simmetria e eleganza della forma sono tutte caratteristiche che appagano la vista. Detto questo, ecco una regola da seguire sempre. Quando potate una pianta per ridurre le dimensioni, sia che lavoriate sul fusto, su una branca, su un ramo qualsiasi, eseguite il taglio appena al di sopra di un germoglio laterale, in modo che il ramo che raccorciate abbia un suo naturale prolungamento. Evitate assolutamente di tagliare rami lasciando monconi. Esteticamente è bruttissimo, ma soprattutto alcune piante come il melo se ne avrebbero a male e reagirebbero facendo schiudere gemme dormienti che producono molti germogli brutti e sterili. Molte specie da frutto producono durante la stagione vegetativa germogli vigorosi. Evitate di raccorciare questi germogli di un anno. Se non servono perché inseriti in una brutta posizione o perché sono troppi, eliminateli alla base. Altrimenti, se esteticamente non disturbano, lasciateli interi. Cercate infine di lasciare poca vegetazione all'interno della chioma degli alberi, perché altrimenti entrerebbe poca luce e la produzione sarebbe di scarsa qualità. Per concludere, una parola sull'epoca di potatura. Si pota due volte l'anno, una volta a giugno-luglio e una seconda volta in autunno o d'inverno. A giugno si eliminano alla base tutti i germogli vigorosi, soprattutto quelli che si originano all'interno della chioma. L'operazione serve per dare luce alla pianta, favorire una buona maturazione dei frutti e la maturazione delle gemme destinate a produrre fiori e frutti l'anno seguente. In autunno o durante l'inverno si fa il resto della potatura. Vale per tutte le piante da frutto e la vite, ma non per le drupacee, pesco, susino, albicocco, ciliegio, si potano prima, durante la caduta delle foglie, per favorire la cicatrizzazione delle ferite da taglio, dato che queste piante si ammalano molto facilmente a causa di funghi e batteri che penetrano attraverso le ferite di potatura. E veniamo alla luna. Tradizione vuole che le piante da frutto si potino in luna calante, ma non conosco le ragioni. La luna calante resta per me un atto di fede nella tradizione. Se posso, mi adeguo. Oggi con Moreno Grati, che ci cura la rubrica delle api, parleremo delle sostanze zuccherine necessarie per la vita nell'alveare. Le api traggono le sostanze zuccherine necessarie alla loro sopravvivenza dal nettare e dalla melata. Il nettare è una secrezione zuccherina prodotta da particolari ghiandole, i nettari, presenti normalmente nel calice fiorale. Esistono anche nettari su altre parti della pianta, ad esempio foglie, piccioli, chiamati nettari extrafiorali, tuttavia la loro importanza è limitata. Si ritiene che i nettari in origine fossero delle ghiandole che avevano il compito di eliminare all'esterno sostanze presenti in eccesso nel vegetale, soprattutto zuccheri. Siccome queste soluzioni zuccherine attiravano gli insetti, l'evoluzione ha fatto in modo che nella maggioranza dei casi i nettari si venissero a trovare nei fiori, cosicché gli insetti, attratti dalla soluzione zuccherina, volando di fiore in fiore, ne favorivano la fecondazione. Le api sugono il nettare dei fiori con il loro apparato boccale altamente specializzato per lo scopo e temporaneamente lo immagazzinano nella borsa mellaria, che consiste in una dilatazione dell'esofago con una capacità di 50-60 ml. Quando la borsa mellaria è piena, l'ape rientra nell'alveare e rigurgita il nettare che viene raccolto dalle api di casa. Si calcola che per trasportare un litro di nettare siano necessari almeno 25.000 viaggi di ape. Nei fiori il nettare viene secreto a partire dalla linfa floematica ed è formato principalmente d'acqua, dal 40 all'80%, e da zuccheri, dal 7 al 60%, soprattutto glucosio, fruttosio e saccarosio. Sono inoltre presenti piccole quantità di altre sostanze, come vitamine, sali minerali, eccetera. La quantità di nettare secreta da un fiore varia a seconda delle condizioni ambientali della specie vegetale. Normalmente, più un fiore viene visitato e più nettare produce. Quando un fiore viene visitato da un'ape, viene anche marcato con una sostanza repellente. Ciò consente di lasciar passare un certo lasso di tempo tra una bottinatura e l'altra e così il fiore può riformare il nettare. La melata è un liquido zuccherino che le api bottinano su foglie e altre parti della pianta, prodotto da insetti parassiti delle piante stesse, come afidi e cocciniglie. Essendo la linfa una sostanza già elaborata, questi insetti che se ne cibano hanno un apparato digerente semplificato che trattiene le sostanze necessarie alla sopravvivenza, soprattutto composti azotati, ed elimina sotto forma di goccioline quelle in eccesso, che sono principalmente acqua, zuccheri, sali minerali. Questo liquido zuccherino, la melata per l'appunto, viene bottinata dalle api. Per la rubrica degli alberi, oggi di nuovo con l'architetto Roberto Barocchi, parliamo di acqua e alberi. Le piante hanno bisogno di molta acqua, che assorbono attraverso le radici e poi emettono con la traspirazione, contribuendo d'estate a raffrescare l'aria. Se le giovani piante messe a dimora hanno bisogno di periodiche annaffiature anche per alcuni anni, le piante adulte generalmente non ne hanno bisogno, salvo che in lunghi periodi siccitosi, ma devono essere collocate in terreni drenanti. È incredibile come le piante di viali possono sopravvivere circondate da marciapiedi impermeabili. Evidentemente vivono male, mandando le radici in profondità in cerca di acqua, ma i terreni profondi sono anche più asfittici. Un apparato radicale sano si espande soprattutto in larghezza, spesso con un diametro superiore a quello della chioma. Non basta quindi lasciare attorno alle piante un piccolissimo spazio non pavimentato. Cosa si può fare allora? Si possono sostituire le pavimentazioni impermeabili con pavimentazioni drenanti sia nei marciapiedi che nelle strade veicolari. Esistono oggi cementi e asfalti drenanti che hanno anche il vantaggio di non produrre pozzanghere in caso di pioggia. Nei marciapiedi lastricati si possono usare lastre di pietra o mattonelle con fori e fessure per fare smaltire l'acqua. possiamo fare ancora di più nei nostri giardini, trasformandoli in pluviogiardini, un termine che credo di aver inventato io, perché in inglese si chiamano rain garden. Ma questo lo dirò un'altra volta. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato debole, con prezzi stazionari. Venerdì scorso, nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 26,70 e 26,90 euro il quintale IVA esclusa. L'orzo peso specifico 62,65, tra 28,30 e 28,70. Il frumento tra 30,80 e 31,30 e la soia tra 58,40 e 58,90. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 8,40 euro e la soia di 13,50 al quintale. Modeste contrattazioni all'orto frutticolo di Udine con prezzi stazionari. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,50 e 1,60 euro al chilogrammo IVA esclusa. I finocchi tra 1,80 e 2,60. La scalola riccia tra 2,40 e 2,60. Il radicchio rosso tondo tra 1,20 e 1,40. Quello di Treviso precoce tra 1,20 e 1,50. I kiwi da 2,50 a 4 euro. Le arance navel da 0,80 a 1,30. Le clementine da 0,70 a 1,50. Nel settore della pesca, a causa della perdurare della pandemia, i prezzi sono leggermente in ribasso. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 12 a 28 euro il chilo IVA esclusa. Le sogliole da 4 a 20, le ombrine da 7 a 27, le canoce da 4 a 15, le passere da 4 a 10, i latterini da 10 a 12, le capesante da 13 a 18, i calamari e i calamaretti da 19 a 23, le seppie da 12 a 15 e i rombi da 22 a 28. Infine, le uova da allevamenti a terra, oltre i 73 grammi a 17,60 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Prosegue la fase decisamente stabile di questo mese di gennaio. L'anticiclone sull'Europa occidentale favorisce l'afflusso di correnti settentrionali in quota, che solo occasionalmente si alternano con deboli infiltrazioni più umide dall'Atlantico, come è stato il caso di giovedì scorso. Nei bassi strati complice il cielo sereno e favorito l'irraggiamento, con conseguenti banchi di nebbia in pianura nelle nottate più umide e temperature minime sotto lo zero, purché lontano dal mare. Tale configurazione proseguirà pressoché invariata nei prossimi giorni. Domani e martedì ci aspettano poche nubi, solo temporanea variabilità specie su pianura e costa, con gelate notturne diffuse. Mercoledì potrebbe passare una piccola depressione in quota da nord-ovest, con modesti effetti nei bassi strati, eventualmente nuvolosità, di mattina seguita da ampi rasserenamenti. Le temperature rimarranno invernali. Giovedì una nuova fase anticiclonica caratterizzata da bel tempo e temperature stazionarie potrebbe essere seguita, venerdì, da una nuova infiltrazione atlantica, che senza particolari conseguenze, salvo nuvolosità e un temporaneo rialzo termico, potrebbe nei giorni successivi formare una depressione sul Mediterraneo, capace di richiamare correnti moderate di bora. Al momento non sembrano associate all'arrivo di aria particolarmente fredda, per cui per il prossimo fine settimana ci potremmo aspettare un lieve rialzo termico. Come sempre, raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. San Paoli scur, fur da lunviar sigur, ovvero se il giorno di San Paolo, il 25 gennaio, è scuro, annuvolato, dall'inverno siamo fuori di sicuro. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Miccoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.